Ciao a tutti. Ciao già, ebbene. Allora. Postazione, mi stavo cantando. Adesso mi sono messo in postazione. Gaffa, cantando state. Sto facendo qui i contest sul corso. Mi hanno dato anche il premio. Il premio, la corona. Ma io ho preso. C'ho la targhetta a casa della gara di karaoke che avevo fatto alla Fedolce. Ah, già l'ho vista, quella dei circoli riuniti. Sì, chi te l'ha fatta vedere? Io te l'avevo mandata, no? Ho visto, sì, mi ha mandato una fotografia della premiazione. Sì, è vero, ha ragione. Mi dimentichi di tanto. Sì. Ho fatto quel premio, io. E poi c'ho anche la testata, la della partecipazione. E lì è cantato bene, Antu, quella lì l'hai fatta bene la canzone, te l'hai preparata chissà quante volte, no? Sì, e da poco in via Sardegna, al Justin Club, ho fatto l'applauso, c'era Vittorio, c'era, con la figlia, c'era Bunnoscido, abbiamo fatto la... ho cantato Perdere l'amore e l'ho ricevuto gli applausi. Chi è Vittorio? Ma Vittorio Gioco? No, ricambi. Ah, ho capito. Sì, ho capito, Volvo. Cazzo, lui canta benissimo, lui è bravo veramente. Anche la figlia, sono 10 sono. E beh, lui ha sempre suonato e cantato, faceva le serate. Tuttora le fa. Siamo visti, ci siamo lì. Vabbè, io non me lo ricordo nemmeno, l'ho visto una volta. L'ho parlato molte volte, ma di visto l'ho visto una volta sola, non è che me lo ricordo di fisionomia. Io già lo conosco. Me lo ricordo qua. A negozio già lo conosco bene. Ciao. E comunque mi hanno applaudito, mi hanno, l'ho cantata bene. Io gli ho fatto l'immensità e tu, poi cosa ho fatto? Pensiero stupendo, poi ho fatto Vespa 50 Special, qualcuno ne ho fatto così, dai. Ci ho fatto 4 o 5. Cazzo, non posso andare a Escio la Bacca, cantami una canzone, ma va a far culo. L'immensità è tosta, Ma, già tanto. Ho detto, non posso andare a nessun luogo come dire, cantami una canzone. Ah, fa il culo, vai. Che, sei diventato famoso. Beh, lo sanno. La gente mi conosce. No, io invece non mi sono mai voluto esternare nei locali cose, mi piace farlo a casa e boh, basta. Addirittura mi volevano far cantare anche quando c'era quella festa qua giù e me l'hanno chiesto se cantavo, perché quelli di giù mi sentono, ho capito, cantare, dice, canti così bene, perché non vieni a cantare? Però mi vergogno, guarda, non mi piace cantare così in pubblico, poi per tutta gente che conosce, se sbagli poco poco, non è che sia professionista, ti puoi sbagliare e cazzo ti pigliare in giro. Secondo me è un'idea sbagliata, puoi anche correggere, è un'idea sbagliata perché io la verità no, prima di adesso non l'avevo mai cantato in vita mia, poi mi sono gobboccio e ci sono riuscito, però io mi sono sempre esibito in pubblico perché so di potercela fare, capito? Non mi sono mai capito, cioè non me ne frega niente, capito, già, perché la gente mi deve apprezzare per quello che sono, poi se mi vuoi pigliare paraguro, mi piglia paraguro, poi ci rimane anche male perché fai figura di cazzo con me, quindi non riesci a prendermi paraguro, capito. Infatti io se mi dovessi buttare e dovessi cantare solo una canzone mi basta in un locale, poi mi piacerebbe farlo sempre, però non riesco a lanciarmi, dai. No, vabbè, un karaoke, non c'è Sanremo, no? Sì, ma io lo faccio a casa di amici, c'è un'amica che c'ha la casa per andare a Plattamona, lì c'è una villa grande e c'ha tutto l'impianto, ma beh, davvero, c'ha mixer, il marito, c'ha il televisore grande e a volte facciamo le cene e cose, cantiamo. E ho cantato lì, capito, davanti agli altri, però è diverso, sei sempre una casa. Sì, vabbè. Io ho cantato con molti, ma non mi conosci né a Sassari, capito? Ho girato molti karaoke, molte. È un'esperienza che ti devi fare in certi campi. Gatto, è una soddisfazione, dai, hai ricevuto il premio a te dolci, è una piccola soddisfazione. Caffa, sì, no, già, anche se era quarto, però la targhetta già andava bene, perché poi ci ho pensato bene, no, una canzone, erano due canzoni, no, una non la dovevo fare un'altra canzone io. E ho sbagliato su di lì, perché se no ce l'avrei fatta anche entrare il terzo. Vabbè, si può sbagliare la vita. Quale avevi fatto, tanto che non me lo ricordo più? Ho capito, in via Mundes. Cosa? Malate dolce. Ehi, malate dolce, quale avevi fatto che non me lo ricordo? Nel sole, è la mia terra. La mia terra di nomadi, mi è uscita perfetta. Comunque, ma sei sicuro però? Sì, nel sole. Certo. Ma ho fatto, secondo me ho sbagliato a fare quella canzone, io devo fare perdere l'amore. Ehi, vabbè, tu. Guarda così impara, ma che cagnata. No, magari l'ho fatto anche bene, però non la devo fare. Devo invertire, vabbè, pazienza. No, non c'è problema, dai. Ma veniva a dirci che era una campana. Infatti quello gli hanno dato riconoscimento, gli hanno dato, e ce li mandati subito. Ma è la premiazione che arriva primo, secondo, terzo, così. Eia. E tu sei arrivato terzo. Quarto. E il primo cosa ha cantato? E il primo era una signora brava. Una ragazza. Ci sono sempre quelle che cantano bene, anche qua in piazza ce n'era una che cantava bene. Beh, non siamo tutti, cioè, non siamo tutti uguali, non persone, ognuno c'ha la sua voce, c'è quello che canta bene, quello che canta male, chi su che è meglio non sentirlo, purtroppo è così, funziona così. Ho capito, e vabbè, tu. E quando la premiazione per quante persone era? 22. Quindi ha fatto, diciamo, un buon posto che ha avuto là. Beh, in effetti, grazie a Dio, devo dire grazie a Dio, che insomma, in effetti me la capo abbastanza bene, dai. Cosa? No, la fai duetti, capito? È specializzata in duetti. Ah, sì. Ah, va bene. Un giorno si potrebbe anche provare, a vedere. Ehi, cazzo, ma un pazzo, cazzo, che fate un bel casino, se no, sei stato in campagna, te avrei sceso l'impianto, ma ho fatto la seratina. Anto, ma quella mucca poi che se l'ha presa, per chi ve l'avete fatta? No, non possiamo toccarla noi, non sto scherzando. Deve essere il proprietario, non so. Non so come finisce al macello, non lo so. Devo chiamare il proprietario, c'è il veterinario, è matta grebata. Poverina, cazzo. Ma era morta? No, che ogni tanto cercava di rialzarsi, ma c'era la schiena rotta. Sarà morta adesso. E chissà che te lo camminendi, che se farà fare una mucca così. Ma guarda, non ci vuole tanto, è pure a 70, si rabbigli tranquillo che... Tranquillo che non ce la fai. Ma non stava camminando tantissimo, perché... ho visto gli orari, ho visto di quando cerchiava per cose, non era buon prende. E poi quella strada neanche la conosceva tanto, sì camminando, ma non camminando esageratamente, perché se fosse esageratamente, fregatene che lui ci sarebbe ammazzato, non ci avrebbe manco chiamato, non avevamo avuto neanche più notizie. Ascolta, ma da dietro la curva ne uscì? Sicuramente, era quasi rettilineo, era rettilineo. Lui sicuramente dice che ce l'ha vista, come stava viaggiando, ce l'ha vista subito attraversare, ha cominciato a frenare ma non ce l'ha fatta. Gianni Caprocaro! Ebbei! Vatti Lu! Buonasera a tutti e due, niente dai, sta facendo, mi stavo ascoltando K, davanti a tu. Ui, vai poco di casino. Non ho capito tu. Un bel casino si sente di ventole. No, ventole non c'è neanche un acceso, il mixer è a specchio, è abbasso. Ciao anche a Gianni, dai, buonasera. Quella va benissimo. Ciao Luca, hai sentito? Allora. Vedi che Gianni è andato anche a Castroccaro, non lo sai, Antù. Era vera cosa burro, cantelli la di mentre di già, ma. E allora. Siamo andati insieme, solo che sono arrivato prima e tu ultimo. Sì, perché sono arrivato dopo. E allora. Io lo faccio per divertirmi, non per essere il cantante migliore, io lo faccio solo per divertirmi, però grazie a Dio ho vinto anche un contest, adesso abbiamo dato la premiazione, quindi vuol dire che qualche cosa la so fare. Ma così la casa è troppo facile, già, come dice Antonio, devi essere davanti al pubblico per dimostrarlo, no? Da casa, io pure mi pongo da casa, devo fare la volta di come ti chiesa di mandarino. Sarà facile, però mi diverto così, perché partecipo ai contest quando li fanno e mi diverto così, dai. No. Almeno passa a te. Come mi metta quella serata di karaoke lì, sotto casa tua? E quando, Antonio? Già è un anno che non fai nulla dei nomi, per carità. Come no, al circolo lì. Ah, da Cristian stai dicendo. Ehi! No. Non ci vado, capito? Non ci vado, ma li sento da qua, li sento io a Puglia. Ehi, capo, c'è, ho fatto la canzone, capito? No, ieri ho visto su Facebook il video di Pinuccio, lì al oratorio femminile, mi sono sconfisciato, ok? Pinuccio è un personaggio. Come andiamo vicino a Martagliatti, non l'hai visto? Ho visto anche quello, sì. Ma ha fatto bugiato! Mica giocato un bugile io qui! Bisogna stare attenti anche, capito, a quello che gli dici o a quello che gli fai. Perché lui può, diciamo, può farlo e dirle certe cose, ma tu non puoi rispondere, è quello il problema, capito? Noi lo chiamavamo a fare il robot quando c'era la festa della Befana a Ciso. Chiamavamo a fare il robot. E chi fa della back dance, giusto. Io. KK. Ma allora non c'è entrato nessuno, no? Ma tu bari. Ma tu. Dimmi tutto. Per esempio, Gianni ha cantato a Castroccaro con Sandra Milo. Tu lo dovevi vedere. È vero, già, dopo è andato pure da Maria di Filippi, se lo vuoi sapere. Da Maria di Filippo, grazie. Da Maria di Filippo. Thank you. bene, sto scendendo a tu, questo microfono sempre. Lo so, già si sente già. Questo è quello da studio, però il PTT sto usando l'MC60. La base è l'MPTT da 60, capito? Però il microfono è quello da studio. KK, va bene. KK. E chi è questo duetto già? Che cos'è che si bruscendi? Qualche uno mi sta sblatterando, cazzo. Ah, che c'è l'amplificatore, Gigio. Attaccato, Si avvio, cazzo. Sono portato all'otto a accordare. Buonasera, buonasera. Buonasera. Cazzo, mia sblatteramento. Ehi, figurati, ci ho messo i chilometri adesso. Se fossi stato a Calvati, guarda. Muove il cinciolato tutto. E si conferma confermando. Guarda che si sa tornetto con ampli inserito. Va bene, cambio passo, compro e vendo. Ampli si già messo grazie al gozzo. Sì, questo è il Jumbo della CT e dell'Alan. Alan Jumbo dell'Alan, l'ultimo che avevano fatto avanti con il trattore di chiamo rispetto, insomma ti dà il punto di riferimento illuminato, è bello, questo era il concetto. Gava gava, e 600 watt sono a niente. E ma già ti intendia già la inoggia. Mi dà gara che fruscendi chi c'è. Beh, flippe. Mi stavo scaricando il video che mi ha mandato Antonio. Ma non ti allunghi sul video, Antonio? È che non è ancora caricato. Ah, di Antonio cantando? Bravo di cantato. Ormai lo scriviamo a Sanremo. Vediamo un altro video di quando l'ho fatto lì a Latte Dolce. Perché non me l'hai detto, venivo a vederti che... sei una druda, che... È che me ne sono dimenticato, me ne sono. Anche se vorrei incoglionito, capito? Gianni, vedi, anche tu dovresti... Però adesso non sta più facendo niente, ha chiuso ormai il coso, Cristian. Ha chiuso i festeggiamenti, diciamo. KK, avanti, vediamo un po' se rientra Gianni. Deve essere al telefono, sicuramente lo conosciamo prima, al telefono sta messaggiando. Gava, abbassione, adesso sto facendo ben poco karaoke perché, cazzo, tra oggi e tra qua sicurezza, tra bomboli, sicurezza. E la tradì puro facchinaggio al service che ha cantato Francesco Renga. Cazzo. Poco tempo, Era Uschi di l'altro giorno. Oh, allora c'eri tu quello di Visionera. Perché? Chi c'era Uschi? Tu a Uschi? Nel concerto di Francesco Renga, sì. Avevo scaricato la strumentazione, abbiamo scaricato. E non eri di Visionera? C'avevo la cosa nera, c'avevo la pettolina. Quella della sicurezza. Eri tu allora. K, un po' ora mi vengo. Io c'ho per passarci la notte. E per passarci la notte abbiamo scaricato, dopo il facchinaggio, abbiamo scaricato la strumentazione. Ehi. Andi eri tu? Io sono sempre da tutte le parti, ma non mi vede nessuno a me. Già poco bombava questa cosa. Noi stavamo facendo un altro tipo di servizio. Un altro tipo di servizio? Ehi, un altro tipo di servizio stavamo facendo. Vai a ricucciarmi. Ti è scritto in qualche corpo? Io? No. Assolutamente no, lo facevo anch'io, mi hanno invitato e sono andato a dare un colpo di mazzo. E infatti dopo ti è venuto il colpo di frusta. Senti che silenzioso adesso che tu sei un altro. Sembra un microfono normale. C'ero pure io, ma c'era anche un'altra persona, c'era. Prova a indovinare chi c'era. Cingo. Sì, ma non ho visto nessuno. Cosa Claudio? Io non so, c'era anche lui, lo vedo tutti i giorni allo spinio. C'era anche un'altra persona con me. No, l'ho visto a te, boh, altro perché poi ero impegnato. Ero impegnato, capito? Ero impegnato. Stavamo facendo altro, poi ti dico che cosa. Cosa hai detto, Luca? Va bene così, il microfono lo toccare. Adesso è staccato il mixer, ha detto ma il microfono è normale. sì, anche Cingo sta facendo fare lo spi, e quando lo mandano in questi posti così a fare sicurezza. Yabol. Ma è tradito per un microfono normale, è amplificata, va bene, non è bombardiera, ma va bene. Ma siccome c'ho le cuffie mi sento la differenza, capito? Quello tipo di no, ti so che tenere il microfono normale, già lo so com'è. Però rispetto a quando è attaccato al mixer è tutta un'altra goccia. Kappa. Gianni mi ha mandato una foto, non so Google, Gianni, magari io. Gianni, io o non lo sento io o non lo so, sta facendo il contest forse. Gianni? C'è la campagna di droga. Che fastidio che dacca, si assenta da me, stavo cantando una canzone. Aiù, guarda una foto di un karaoke. Sarà, c'ho la scuola chiusa, ma io non intendo nessuno. Avanti, e tu, se ci sei anche tu. Beh, forse sei faccia da antenna. Là, ci sei? Sì, un secondo. E mi avete chiamato? Ho chiamato a te, ho chiamato a Gianni, ha detto, l'antenna si è fasciata, non risponde più nessuno. Aspetta che mi sta entrando un cliente, dai, ci sentiamo. Ehi, fai. Ok. Ehi, qua Sonia, vai, stavo salutando a mio padrino a 2 metri. Pronto, c'è nessuno? Antonio si è spostato e è arrivato un cliente. Gianni sta facendo karaoke con Sandra Milo. Vabbè. Gianni, ti ho detto, Sandra Milo è troppo brava per te, non la puoi superare. Sandra Milo, ma mi sa da donna. E via. Ehi, c'è troccato a Gianni. Ha fatto il contest con Sandra Milo. Contest a parola grossa. No, non ho visto niente, no, non mi piace andare a karaoke, non è una cosa che seguo. Quel video l'hai visto, quello che ho mandato? Io l'ho visto. E quello che avevo mandato l'altra volta, quello di Polo. Ma anche quella verticale, la seconda va bene, quella che avevo fatto, che hai visto nel video. Per i 40 metri, avevo fatto con la bobina risonante così per ascolto, però per i 40 metri guarda, va benissimo lo stesso. Però con il polo mi posso allargare di più e allora ho messo quello, capito? Ma quello è una scoppettata in trasmissione, guarda, vanno benissimo quei poliviti. Poi già ti ho mandato anche il video della cosa ed è buttato così, mi hai visto c'è il palo dell'antenna davanti, per carità. È una posizione un po' brutta. Ehi, va bene. Aspetta un attimo che vado in cucina, dove allora se sto pronto, così faccio tonos. Ehi, meglio, cazzo, mi piace così, non mi piace, hai si attacco da un gosso, mi piace, questa è l'abitudine. E là, eccomi, c'è qualcuno? Eccomi. Ci siamo attorno, stavo cambiando che avevo messo il microfono in posizione, il microfono normale, però non mi piace, l'ho riattaccato al mixer, ci siamo, si è sentato Claudio, Gianni non ha più risposto, non so cosa dirti, va avanti? Kappa. 9:20 mi stai arrivando, come mai, che hai fatto? Aumentato, No, sono 15 watt. Quindi aspetta, allontano il ricevitore, c'è un fischio. Fannapolo. 15 a tu, 15. Niente di che. Sta arrivando bello forte. Non ho toccato niente. No, prima stavo usando il microfono attaccato normalmente, adesso ce l'ho attaccato al mixer. Mi piace di più, capito? Domani il mio collega è a Villa Sinius, che c'è Giusy Ferreri, c'è. E sì, che ti sei trovato con Manuele? Manuele? No, non sono più con quella ditta, no. Cattolari si offendeva 7 su 7, ci si usa un mazzente, fa una miseria per carità. Passate di no. Arturo, chi si va su, non è che è come te, capito, che tu ne hai uno fisso e gli altri per così, va su fisso. Purtroppo mi ha detto le paghe sono queste, non è che lo dice di niente, le paghe sono queste, per contratto, ma è una miseria, cazzo, è una miseria, credo. Manovale, fatti le tue 8 ore guadagni quasi 2 volte di più, ma ti rendi conto? Sai cos'è? Che lo accetti per bisogno, lo accetti perché se no gli avete andare a cagare, perché notturno vuole pagato bene, capito? E dipende che ditta è, o non lo so, dipende sempre che ditta è. Ho capito che ditta è, Anto, ma se la legge ti dice che la paga un'oraria è quella, c'è ambidita, della matessi ministra, cosa già abbia fatto? Infatti gli ho detto, boh, informati, perché mi sembra strano che ti devono dare cazzo una miseria ora, capito? E in più ti devi pulire la benzina, ho capito che si dà la teroce per dire a Carbonazzi, è sempre la benzina, e se te ne vedi di togliere, da chi sono miseria che ti dazzini? E ti fai un giro di conti a fine mese, io non lo so. Manco la benzina ti rimborsano, per carità. Non lo so quant'è ora, non lo so proprio, guarda, a fin dei conti gli avete andare a cagare. 4 euro a tu, ma lo sai, sono 4 euro, capito, che guadagni il Duca andando a fare manovale, almeno a manovale guadagni 70-80 euro al giorno, capito, 60, dipende da chi tu. Ma 4 euro ma se rimboli un terzo in benzina, ma va! Ah, 4 euro ora! Ah, perché non se ne sa proprio dove era? Cazzo, mi avete andato a andare a cagare gli abredenti. Ma lo sai, io per fare 3 ore di lavoro ti mi fa un culo, a scaricare il camion, a noi ce ne danno 10 a ora. Non lo so. Se la legge è quella non ci puoi fare niente, capito? Ne approfittano anche. Cazzo, io per fare due servizi in Piazza Castello ho mani pagato, mani. E come se mi hanno pagato? Ah vai, a fanculo questa, Rozzini. Il buono l'altro che va via prima, lasciamo perdere, va. Non è che voglio commentare molto. Ci ho lavorato io, nel candeliere è andata bene la cosa. Cioè, cazzo, chi su che se si vizio che ha giubato a Monti, va a caridare, lasciamo perdere, ma poi in mano, cazzo, dai 3 di sera, ai 3 di mattano 60 euro, brutto pezzo di merda. Cazzo, da di Zuri, ma che mai, vabbè, non vi siete trovati ai candelieri, lui c'era anche ai candelieri. Sì, ai candelieri mi ha dato... 100 euro a testa ci hanno dato, e già andava bene, cazzo, poi stavamo fatto un culo, stavamo fatto, cazzo, stare tante ore in piedi non è bellissimo, però già andava bene, cazzo, 100 euro, poi mi ha pigliato in odio quel figlio di puttana, non mi ha fatto più lavorare, ma stare nei rimedi, gli ha lavorato lo stesso però. Vedi che lavora, aveva giubilato di burro, baro burro, in piazza Castello, e beh, non sono più con voi, non mi ha chiamato, la giubilato di burro, baro burro, con sorrisino in bocca, ha detto, vabbè che già travaglio il matessi, di viro a Ghiccio Gipito, che già lavora lo stesso. Lascio qualche secondo se vuole entrare, rientrare qualcuno, boh, non so cosa dire, tanto, ma credo che sia dappertutto così ormai, perché ne stanno approfittando dappertutto, non solo qua in Sardegna per dire, o Sassari comunque, dappertutto. Se ti viaggi così ti dici, se no gira l'angolo mio e ve lascio pronto, ma stiamo arrivando a una schiavitù che fa schifo, veramente, fa schifo anche tu, perché sì, ognuno deve guardare casa propria, deve mangiare, però quando arriveremo a un punto che tu non hai, non riesci più a fare nulla, ti renderai conto che quella è anche colpa tua, perché anche tu sei stato lì giustamente a pensare a casa tua e col tempo hai rovinato tutto. Via. Ma. Quando è così bisogna andare a cagare, meglio e meglio, ti fai quel servizietto e basta, e non... ma lo mandi in avanti, mandi in avanti, fanculo li mandi, no? Io non ci lavoro così. E questo, quelle 60 euro ancora ce l'ho, un quaccio di acqua mio. Cazzo, mi ha giubato un culo, azienda, la rampa, goccia. Ma va a fare culo, poi per darmi 60 euro, io non aspettavo mai da almeno 70, 80, già vanno bene. Cazzo, invece mi ha messo in mano 60 euro, lui e il notturno dovrebbe essere pagato anche di più. E chissà cosa cazzo sono i bocci in busciaccara, Edo, brutto pezzo di merda. Ignorante cazzo, ancora cazzo qua ce l'ho. Immaginati che sei anche in nero, no? Loro, immaginati quanto stanno guadagnando, perché se a te ti danno 100 euro per dire, no? Loro se sei assicurato ne pagano 200, immaginati tu cosa stanno risparmiando loro, e ne approfittano dandoti anche una miseria, sono miserabili e basta. Io non mi lamento, se tu mi paghi io vengo a travagliare, cioè non ti dico un cazzo, non ti dico. Cioè, quello là, la verità, con questo che sto lavorando adesso, la persona in gamba, ti tratta bene, ti offre anche la colazione, cioè, una persona veramente a modo che io lo ringrazio ogni giorno, lo ringrazio perché è una persona come si deve. Quelli là, una massa di pezzi di merda che non ti dico, poi cazzo, mi sa faccia dell'auguro. Ma ti nandi, che sei un pezzo di merda, sì, e boh. Guarda cazzo, l'odio cazzo. Questo che sto lavorando adesso è una persona in gamba, ma in gamba veramente. Non gli posso dire manco un bar, guarda. Veramente una persona a modo è una persona che veramente merita. E beh già. Ero al telefono, scusate, ma non avevo potuto avvisare, sono dovuto andare al telefono che mi hanno chiamato. Luca! Veglia. Si sente un po' di rumori sottofondo, come mai così? Bro? Perché si è attaccato al mixer il 60? Guarda a vedere, c'è il 60, il microfono è da studio, però la base è quella del 60 che sto usando. Così va bene, ma prima sentivano rumori sottofondo, invece che un bel potente prende tutti i rumori. Perché quello da studio diciamo che è unidirezionale, capito? Io quindi adesso mi sto spostando sopra, sotto, di lato, so, eppure tu senti sempre la voce uguale rispetto a, a, diciamo, ai dinamici, così che se ti sposti si sente quando ti allontani. Però prendono anche un casino di rumori, infatti quando si accende la ventola si sente la ventola, eccetera eccetera, ma anche il 60 lo fai, quando accende la ventola, si accende la ventola, la senti, capito? KK avanti già, allora va bene così, lo lascio così. Sì, adesso va bene, prima c'erano rumori sottofondo. Chi c'è in ruota? Che io sono arrivato adesso e non so se è entrato qualcuno. C'è Antonio, non è entrato nessuno, Claudio si è sentato, ciao Davide, mi stavo parlando di gente in marabacadora, ho già, per carità, cazzo, l'abbiamo fatto a me, cazzo, l'avrei messo il dito in culo, gli avrei messo, cecci di merda, cazzo. Perché ce n'è un bel meglio di gente a fare la butta. E ce n'è, è bello che pretendono poi quando arrivi a pagarti, quando devi dire devo pagare, ti trovano mille scuse. Ma oggi io dico una cosa, mi stai chiamando così, ok, non sono assicurato, non pretendo l'assicurazione perché mi chiami un giorno alla settimana o due giorni alla settimana, ok, ma almeno dammi qualcosa in più, visto che ti sto facendo risparmiare la metà, perché se mi assicuri ti costa il doppio, almeno dammi qualcosa in più, invece te ne danno anche di meno. Discende con macchine di lusso. Ma chi, il tuo? No, il mio si comporta benissimo, non è di quelli, no. Quello che c'avevo prima era un bastardo, ma questo qua è una persona in gamba. No, il mio principale, tu potevi dire tutto, però il fatto di pagare ti pagava in orario, il 5 ci pagava, e ci dava tutto e non ha mai pagato a rate, niente. Beh, se non ha, se non hai visto quanto di carta. Io sono stato fortunato, li ho trovati sempre che pagavano e quando mi aspettavano i soldi me li davano. Adesso ha giovinito, non mi pensi più a risinosi. È vero già, se bilamo il gang, vabbè che ce l'hanno in massetti. E lo c'è che mi passi questo dolore alla gamba, lo vedi, si alza. Se ci mettiamo d'accordo andiamo anche insieme, non c'è problema. Però il fatto è questo, che con questa gamba così non posso fare niente. Andronghi, andate. Media, andronghi, andiamo. Prende papà a prendere le scie, più portare a prendere va. No, ma che? Stai che va via. Per due. È da Natalino. Io rimano perché sono un cazzo handicappato pescando, no? Cazzo. Vabbè, comunque, si può andare anche, non c'è problema. Una volta ne ho preso 12, poi deve essere una mia caduta, ha lasciato il nero, il giorno dopo sono tornato a pescare, che era tutto pieno di ieri. Quando conoscono il posto poi la gente va, allora. Se hanno trovato il segnale, c'era che viso Sippi, se ve lo dice più a viso Sippi, allora l'ho provato, capito? E uno ha detto, ne ho preso 4, almeno per il riso mi bastano. Ehi, così, mi sta facendo un barbo, una boccetta. Maledetti dolori, quante cose avrei potuto fare, cazzo. Vabbè, avanti, lo riprendo, adesso sono qua io. Se non vi rispondo, mi sono allontanato in cucina. Ha già fatto il preventivo, vedi cosa, Viburia va a fare il massaggio dalla macchina del mio suocero. Cazzo, 370 euro di massaggio, una banda cagata. E si è andato dove? Ma dove te l'hanno chiesto? All'ACI? No, ho chiesto l'agenzia lenta, ho chiesto, ma non è che ci abbia assai in una situazione. Ma è cazzo perché ho messo due, ma non la richiede di ne vendere questi macchini. Beh, l'agenzia c'ha il suo guadagno, se vai all'altra mi pare che sia intorno ai 270, 280, una cosa del genere. 300 altra, 70 euro ci prendono in più. Se erano i soldi adesso ci se lo puoi fare anche in comune, ti dura mi pare un mese. Un paio di mesi. Passaggio, vale 70 euro e ti dura 3 mesi. Cioè, roba da macchina, cazzo, cioè. cioè, fanno un cazzo di macchina a 1200, un motore file, cioè, ma come si fa a pagare tanti soldi un passaggio del cavolo? Cazzo, se si ti bigli una macchina, cazzo, un pochino di più grossa quanto un vinivone. Mi pare che in Germania, mi pare che sia, non mi ricordo bene, mi pare si paga 20 euro. Non mi ricordo se è in Germania. 870 euro ancora per quella che c'ho io. Cazzo! E già me ci devo pagare. È un atto di trascrizione, amico. È un atto di merda, un atto di trascrizione. È una cagata. Te lo dico perché io per la 600, quando avevo la 600, ho pagato al Prado 270 euro, capite? 270, quindi era un 1100, era un 1100, perciò è così, kappa. E se no siamo futti a risolvere a Pascoli? Pascoli che è un 1200, chi c'è? Un 1200? Ma roba da macchi, cazzo, ma a me che ho un pezzo di cosa di merda, cazzo dei buoni, cazzo, da mio suocero, da Gavino, a mio nome e cognome. Ma cosa avevo? I dati, ma cosa avevo? Ma questa gente sono una massa di ladri, ne fanno centinaia al giorno, guadagnano un sacco di soldi. Infatti, ma te si casa va vedi con Ricchi. Quello dell'agenzia Resa, tu hai un villone. Ma già lo conosciamo perché è anche nostro cliente. Non me la piace, sta bene Ricchi. Chi se ne via a Pascoli va via. Vedi, con quella non ho sbagliato, perché quella era visto di passaggio, non te ne faceva. Che problemi c'era? Sono si passaggio, vedi. Perché a Pascoli si è arretrato a muro, ha denunciato, ma stai scherzando, ha chiuso la delegazione lì, hanno portato via tutto, abitava sopra di me quando ero via a Pascoli, e io ti rigoglio, il carabinieri, la vuoi cazzo? C'era un grido di al minimo che potevano fare proprio. È un casino combinato quella, poi c'è molta gente che ha perso anche la macchina perché il passaggio non l'aveva fatto. Non pagati, capito? Andava a pagare il bollo, tirava la ricevuta però non l'ho registrata, capito? Casino ha fatto chissà. E no, cazzo che io l'abbia bruciato durante un gas, però ancora la gente, ma stai scherzando? Perdo la macchina a Fagosa, però è strano, cioè se uno è abile si ne abita subito, mi avessi l'ha fatto o no. E tu? Dimmi. Ma sei tu? Che ti si sente sotto, c'è qualche ventola accesa, sai? La ventola degli alimentatori. Un po' così intendere. Vediamo come si sentono. Ah, anche i ventilatori c'ho accesi, che c'è caldo qua. Ah, ecco cos'è. Non del vento, del vento, non succede niente. Cabagava. Beh, mi assento 10 minuti. Tra l'altro quel cazzo di vento di Scirocco, domani è andato 37 gradi, ma è possibile che ancora non se ne va questa merda di caldo afoso. Io sono che ti dica, quindi mi hai visto Oscari, così ti ho visto, però noi stavamo facendo altro, ti ho detto, capito? Noi stavamo facendo altro, non era inerente al concerto, stavamo facendo altro. C'era anche un'altra persona con me che tu conosci molto, molto, ma molto bene. E a te ti ho visto di faccia, lui magari ha girato di spalle, non l'ho riconosciuto, capito? Anche perché poi ci siamo spostati a fare un intervento e ti ho perso. Quando sono rientrato poi non ti ho visto più. Ma dov'era il concerto? Tanto non era Tisi. A Tisi ha fatto Alex Britti. Io invece ho fatto cosa, come si chiama? Io ho fatto Renga invece, cosa Oscari. Ah ecco, eravate divisi, pensavo fosse insieme. No, uno non ci sono potuto andare, perché era dentro di settimana, il giovedì. Il sabato sono andato io, adesso ho dato la disponibilità sabato, se c'è qualche concerto a parte, ho capito dove comunque. Adesso domani lui a Villa Siminus che c'è Giussi Ferrere, capito? Tutti i cantanti rinomati ci sono. Tutti i cantanti che cantano. Rinomati vuol dire conosciuti, ci sono anche i cantanti che cantano e non sono conosciuti. I cantanti che cantano, in quel senso lì che insomma cantano bene. Cantanti bravi, se no vi sono cantanti che fatene cagare. Ferreri che forte cantando, eh. Chi? Giussi Ferreri. Sì, ma vuoi cavolo, niente, ma cantone, zame, zame, mamma, gatto, pare che tu richiamarti, va bene. Già, deve cantare. Sì, c'è la voce alla gina, c'è un po' così, comunque, è bravo. Io delle donne, per me, non c'è. Alessandro Amoroso, e boh, number one. Coso già canta bene, come si chiama? La Marrone, cioè Emma Marrone che ha semicidiale cantando. Gianna Nini, quelli sono mondiali. Parliamo delle giovani, di quelle nate da Canale 5, Gianna Nannini e invece la mamma. Emma Marrone, sì, Elisa, Alessandro Amoroso, poi sono belli ragazzi, bravi, ma delle donne io preferisco quelle. Mi, ti ha già mandato una fotografia. E adesso me la guardo che qua non ce l'ho per la funzione al salone. Ma io che ti porto fuori, no, ma io al fresco, ma io, capite, sempre a occhi. Sotto la scrivania, sempre lì sta, cazzo, mamma mia. Mi nonna ti sta chiamando, va. Va tu due. Vai, torno subito, vado un po' fuori al fresco a fumare una cinca, vai già. Vediamo se capisci con chi ero. Aspetta che me la controllo. Capo gaffa. Io lo so ma non lo dico. Va bene, arrivo da questa postazione. Cosa, Antu? Bene, arrivo da questa postazione. Ci arrivi bene qua. Quanto? Ora. Un momento. Ora, ora. Sì, sentiamo 9.5, dai. 9.5, radio 5. Ma la vuoi finire? La vuoi finire? Tu Crescia, tu sì. Ma che è quello nella foto con Antonio? Io non lo conosco, che è? La vuoi finire? La vuoi finire? Vai, vai, mi è andato, vai, qua qua mai. Vai, vai, però vai, vai. Mangiati un bollino di mammo. Cosa? Già sono io, già là, che devo sistemare a montare. Oh, ciao, Felipe. Ciao, bella, aspettami, guardo. Lo conosco manco chi è questo io, boh, no, non mi dice niente. Sai che c'è dolore, io, oia. E io, ascolti la Sardegna Italia, cambio. Beh, io vi saluto tutti, questa sera chiudo le trasmissioni. Ciao, ciao. Ciao tu, ciao, ci sentiamo. Tutti morti? No. Già adesso si stavano un telefono, senti, avevi salizzato in radio, ma non posso. Ci siete dopo, ci metterò buono, che ne so, un 20 minuti, mezz'oretta massimo. Andiamo, andiamo, cateriamolo. Si vede, stazione aria. No, sempre perfetta. Sempre perfetta. Facciamo scaldare le candelette, eh. Grazie.